d'amore me teneva incatenato, m'ho detto basta, mi sono liberato. Me pare più turchino cielo, me pare più lucente il sole, e ho cuore canta pa felicità. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amaro, se crede che impazzisco e poi mi sparo. Che la la, che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglio un'altra più bella e zedella resterà. Che la la, che la la, che la la. A ieri mi ha mandato un biglietto, fa figlio del portiere di rimpetto. Mi scrive che non è felice e che vorrei che mi fa pace, ma io mi sto gustando a libertà. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amaro, se crede che impazzisco poi mi sparo. Che la la, che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglio un'altra più bella e zedella resterà. Che la la, che la la, che la la. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amaro, se crede che impazzisco poi mi sparo. Che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglio un'altra più bella e zedella resterà. Che la la, che la la, che la la.